L'obiettivo di Air è quello di trasferire la stessa logica, la stessa fruizione applicativa che esiste nelle applicazioni web sul proprio computer, quindi sul proprio desktop. Quindi avere la possibilità sul proprio desktop di avere delle applicazioni, come noi diciamo, rich, quindi rich internet application, cioè applicazioni che danno il massimo di interattività e la maggiore e la migliore facilità d'uso dal punto di vista dell'utente. Quindi normalmente noi andiamo su un sito internet con il nostro browser, quindi con il nostro programma di navigazione, che sia Internet Explorer, Firefox, Safari, eccetera, eccetera, e noi vediamo una serie di siti internet con una serie di contenuti. Il vostro scopo è quello di portare molti di questi contenuti sul computer, quindi più facilmente utilizzabili. Sì, fare in modo che i contenuti che si fruiscono dal web siano fruibili anche sul proprio desktop e anche quando non si è connessi alla rete. I contenuti del web sono contenuti spesse volte multimediali, sono contenuti rappresentati da audio, da video, e la fruizione di questi oggetti sul proprio client è legata al fatto di essere connessi alla rete, quindi all'interno di un browser. Con Air sarà è possibile realizzare queste applicazioni completamente disconnessi dalla rete, quindi fruire di queste applicazioni quando non si è connessi alla rete, o preparare, diciamo, la propria interazione con la rete prima ancora di essere connessi, quindi preparare il proprio lavoro o consultare il lavoro fatto da altri o elaborare il lavoro fatto da altri.